No, non lo senti. Mario Mariani non lo sente. Allora lo forse è la, sono è sordo, la, ma no, no, è la scatolina. Provate scatolina. A cipollare un po' la scatolina. Cipolliamo, cipolliamo. E intanto ci divertiamo. E intanto ci divertiamo. Ci abbiamo come ospite. Abbiamo come ospite Mario Mariani. Oh, ciao, grazie di avermi ospitato. Questo l'ho già detto un minuto fa. Faccio anche questo effetto sonoro qui. Però ci sta, fra l'altro ci sta bene con tutto quanto, no? Perché ma il frolino, ma non chi è Mario Mariani? Chi è? Mario Mariani? Chi è? Diciamocelo. Allora, devo dire chi sono. Beh, di rispondere a chi è, a chi si è una delle più difficili domande. Allora, quindi aspetta, ascoltatori, se ci sentite, volete rispondere. Chi è Mario Mariani? Beh, oggi è facile, vai su Google, scrivi Mario Mariani e ti appaiono, di solito sono tra i primi risultati, poi c'è un altro che è un amministratore delegato di Tiscali, che non sono io, l'altro è un pittore. Io a mio nome ho il webmaster del Vaticano. Dai, wow. Stefano Pasquini webmaster. Ma hai anche un cineasta, se non sbaglio. No, un teatrante. Sì, è vero. E quindi ecco, diciamo, quello che non è l'amministratore di Tiscali, quello che non è uno si occupa di cibo, si definisce mangiologo, si chiama Mauro Mario Mariani. Ah, fantastico. Io sto facendo pubblicità ai miei omonimi, e quindi comunque il mariomariani.com, quindi io sapientemente ho comprato il sito, il dominio in tempi non sospetti, quindi insomma. Quindi cercatemi, ti fai anche vedete. Gioco degli altri Mario Mariani, e perciò va anche bene reclamizzarli. Sia di loro che degli The Cyber Squatter, che sono quei signori di quelle aziende, soprattutto negli Stati Uniti, che hanno comprato domini e li rivendono a peso d'oro. Io ho visto tra i vari mariani.com, ce ne sono diversi che vedi, se vuoi comprare dominio devi pagare $1,000, $2,000, quindi sì, te lo prendono in ostaggio. Ostaggio, tu se vuoi devi pagare, esatto. Una mia amica in Cina dice che lo fanno anche proprio con le griff. Ah beh, sì addirittura. Sì, una mia amica designer le hanno rapito e le hanno chiesto diversi milloni per chiederlo indietro. Beh, perché lei non aveva il suo sito registrato? Ce l'aveva solo registrato in Italia e in Europa. Beh, se ce l'ha .com comunque non è un... dipende, poi i cinesi ci provano a volte, però potremmo farci un prossimo cocktail. Lei non l'ascolterò mai. Paesaggi spaventosi. Questo non eri tu, vero? Infatti, no, mi sembrava, dicevo, no, lo stile poteva essere. Poteva comunque essere. Sono gli accordi che uso. Quindi... No, invece si chiama Reto Müller, quindi... che salutiamo. Oh. Ciao Reto! Ciao. Anche fra l'altro, secondo me, è il suo compleanno. Auguri! Molto bene. Invece il nostro Mario Mariani è un compositore. È un composer. Un decompositore, un ricompositore. Che ci come piace. Sì, sì, comunque ecco. Tra l'altro la composizione secondo me è qualcosa di vecchio, forse relegato al secolo scorso, quando si aveva un'idea, si sviluppava secondo i canoni, in particolare quelli del post-strutturalismo, cioè l'eredità, diciamo un po' forse infausta, della seconda scuola di Vienna. Ora in questo momento Radio Fugico diventa Radio 3. Coxy questo qui. E quindi diciamo veramente adesso sembra, lo sto dicendo anche in maniera ironica, però comunque l'eredità era che sul finire del secolo scorso, se la musica che un compositore non cioè, componeva non era riconducibile ad un materiale originario da cui doveva avere delle regole precise, con la dodecafonia di Schoenberg, con lo strutturalismo, tutto doveva avere un DNA che in ogni brano, in ogni punto del brano doveva essere riconducibile. Questo faceva vincere i vari concorsi di composizione. Se tu eri un bravo scolaretto che aveva fatto bene il compito, vincevi i concorsi, la tua musica era giusta. E diciamo che quello è stato anche il segno per cui la musica di ricerca contemporanea ha cominciato a essere poco frequentata. Esatto, e questa cosa ha generato i suoi anticorpi, che sono la musica, il minimismo pianistico, senza far nomi, Ludovico Einaudi, Giovanni Allevi, questi qua. Avevi detto senza far nomi, scusa. Perché scusa, siamo in diretta, non siamo registrati, possiamo togliere, no? Possiamo togliere. Siamo direttissimi. Siamo 333-180-94-94, allora, non dico, se lo volete insultare dal vivo potete farlo sia su WhatsApp che con messaggi comuni. Allora, torniamo indietro, quindi il minimismo musicale che ha permesso a pianisti di livello di seconda settimana di studio musicale di fare le loro musiche, di avere visualizzazioni e così via. Esiste una terza via che non sia l'ipercerebralismo e intellettualismo, oppure dall'altro canto il minimismo? Certo che c'è, Mario Mariani, ecco. che ha anche una bellissima voce, non so, Coxonaut all'ascolto, sentite che vibra. Sappiate che ha anche una bellissima voce. Purtroppo non c'è la webcam, fortuna che non c'è così. E la magia della radio è che puoi avere una voce suadente e poi immaginarsi, chissà. Ma scusate, sono nuovo, no? Coxo, cosa, per chi non... usate molto questo intercalare. Sì. Coxo è per non dire qualcos'altro... Che coxo fai o... Che coxo fai va benissimo. Coxo fai va benissimo. Va benissimo. Nasce per questo e da altro. Okay, senti, ma possiamo ascoltare seriamente uno dei tuoi pezzi di questo nuovissimo disco che è appena uscito la settimana scorsa? Come si intitola? Un mese fa, è uscito a luglio, è uscito a gennaio. No, è uscito a settembre. A settembre. Eh beh, ormai praticamente era ieri. E come si chiama? Rossini Variations. Si chiama The Rossini Variations e quindi come si intuisce facilmente sono delle variazioni su un certo signor Gioachino Rossini, che era un grande compositore quando ancora si componeva musica, nel 1800. Tra l'altro morì il 1868, morì il 13 novembre, quindi praticamente pochi giorni fa, e morì 150 anni fa, quindi si celebra un po' ovunque dove si occupa di musica classica il 150enne dalla scomparsa di Rossini, e tra, in particolare a Pesaro, che tra l'altro è anche la mia città natale oltre ad essere la città di Rossini. Un pesarese doc come sì. Rossini sì. E dunque cosa ascoltiamo? Allora stiamo ascoltando serissimamente. Guarda, sento la musica sottofondo, ti chiedo di farlo ricominciare dall'inizio perché prima voi citavate il frullino. Ok. Dici, perché il frullino? Allora ecco, e da qui si scopre la mia ignoranza, perché io non so quale dei no, allora è la 3, Ovviatura Gazzaladra. Sentiamo ecco, dall'inizio, sentite dall'inizio. Ecco, adesso senti, è vero, il frullino. Aspetta che la metto okay. Come si deve. Che da qua è tutta un'altra cosa. Pero. foleggiavamo alquanto da autentici sbarazzini della strada. La Durango 95 filava molto carasciò, con piacevoli vibrazioni trasmesse al basso ventre. Ben presto alberi e buio, vero buio di campagna. E qui citato da Arancia Meccanica Kubrick, qui esattamente Kubrick, che era un genio e riusciva a fare comporre per lui compositori, specialmente quelli scomparsi, morti e quindi sotto fuori dominio SIAE e quindi utilizzò il secondo tema della Gazzaladra per Arancia Meccanica. E quindi parlavamo prima di un frullino, che era un frullino che uso per il cappuccino shaker, che si usa solitamente, che io lo uso sul corpo sonoro del pianoforte per avere questo effetto mandolino. All'inizio di questo brano invece era su un rullante, perché l'ouverture della Gazzaladra, che è il brano dell'opera della Gazzaladra di Rossini, che è il brano che state ascoltando, inizia con un rullante, con una rullata, quasi una rullata da plotone di esecuzione. Una rullata di botte! Rullata di botte, da plotone di esecuzione, perché la Gazzaladra è un'opera in realtà semiseria, ma basata su un fatto drammatico. Una povera servetta venne condannata a morte, poi uccisa, perché era stata una storia vera questa, ritenuta responsabile di aver rubato dei gioielli. In realtà era una gazza che le aveva rubati, e quindi Rossini, il suo librettista, compone un'opera su questa storia, finisce fortunatamente bene, però comunque ecco, e questa è appunto l'ouverture. Io non so cos'altro aggiungere, me l'ascolto. Mario Marian on kaunis sävy ja on super poksiko eenessä aapakki. Mario Marian è una bella ombra ed è super coxico e ne sa un pacchi. Un pacchi. Un pacchi. È una bella ombra, quindi. Che ti ritraduco, però tu c'hai più dono di me col Google Translate, bisogna ammetterlo, Pask. Ma questa musica in primo piano forse potrebbe scendere un po' più in secondo piano? Forse sì. era rapito. Sono un po' rapito. Dice posso dire posso smessaggiamo. Cioè, abbiamo Gifo che naturalmente lo insulta. Metti il filtro coxico, che siamo in fascia protetta. Tu comunque sei un ottimo incassatore, naturalmente. Vediamo se mi incasso. Dice il nostro uno dei nostri cari. Così ascoltatore seguace, sì, che è venuto anche, sì, più volte ospite in trasmissione. Bene. Da lontano, allora, Veneto. Allora, innanzitutto, prima domanda è: come coxo è vestita Fedra, che pare una rappresentante? E seconda domanda: com'è che si chiama sto coglione? Sto coxone. Abbiamo già detto, ripetiamo, Mario Mariani. La terza non è una domanda. Dice: sì, se si taglia i capelli è uguale a Salvini, e dice anche le stesse stronzate. Allora, coxate. Con la traduzione istantanea non te la cavi un granché. Devo dire che sono un po'. No, anche perché comunque se io tolgo il dito da qua, voi non vi sentite più. Volete che provo? Proviamo. Provo. Parliamo? No. Ci sentiamo, hai fatto la magia alchemica. Ho fatto la magia. La coxeria. No. Questo lo devo fotografare perché... magari dopo in un fuori onda. No, lo posto. Allora, caro Mario, io me ne approfitto, sì, intanto, ecco, che lui sa abbastanza il volume. Non approfittate di Mario, che ti conosciamo, No, ma giusto perché sono di fuori dalla gabbia del vetro, per una volta, lasciami esprimere, guardare negli occhi di prima persona. Ecco. Sì. Caro Mario. Sì. Quindi, di origini pesaresi. La mia fidanzata è pescarese, salutiamo la fidanzata, si è Katiuscia, ciao, che bello, uno dice la tua ragazza è russa, è italiana, no, è abruzzese. L'Abruzzo è un'altra cosa. Io sono sposata a un abruzzese, figuriamoci. Mario, quest'album uscendo, che si chiama The Rossini Variation, che è il tuo album del 2018. Sì, numero 4. Quarto album di pianoforte solo. Poi ne ho fatti altri 5 di altra roba. Da dove ci vieni, Mario Mariani? Come ho già detto, Pesaro. Quando scopristi questo talento? Ma allora, io suono il pianoforte da 42 anni. Ne hai 44, no, sì, quindi. No, non da quando ne ho 42, ma da 42 anni fa. E quindi, insomma, diciamo. Ma ti hanno dato il ciuccio al pianoforte? Me lo sono trovato da solo il pianoforte. Ah, sì? Perché comunque mi ricordo ai tempi tutti giocavano a basket, poi Pesaro con la scavolina. Giocavano alla bottiglia. Tutti i giochi in cui ero negato. E l'unica cosa che veramente ho inciampato su una tastiera a buon tempi. E quindi da lì ho cominciato a suonare. Avevo una grande facilità a sentire la musica e riprodurla, quindi sentivo le pubblicità in televisione. Ma che soddisfazione, ti immagini la sua mamma che lo sentiva. Sì. Che soddisfazioni. Probabilmente la sua mamma diceva Guerrina. Ma smettila di fare il casino con quella cosa. No, loro mi hanno sempre lasciato veramente libero. Vedi, fantastico. Non sarebbe il Mario che è se non avesse la Guerrina. Certo. Salutiamo Guerrina. Adesso dovrò poi... Si è recentemente, diciamo, approcciata agli smartphone e quindi quella è stata terribile. Ogni volta devo sempre aiutarla a riconfigurare WhatsApp. Gli appaiono sempre i numerini dei messaggi non letti. Ma perché gli appaiono tutti gli aggiornamenti e ogni volta devo correre a toglierli? Quindi. Beh, sono felice di vedere che anche ci deriva anche l'ospite. Quindi diciamo che è nei temi coxici. Sì, ecco, sì. Assolutamente. Ma ritornando a noi, quindi sì. Hai scoperto la musica per caso? Beh, su 6 anni sì, diciamo, non sapendo fare. Null'altro. Sì, ho sempre fatto quello, poi anche altre, diciamo, ho avuto tante altre passioni, tra cui l'elettronica. Io, come si dice qua a Bologna, cipollavo con diciamo circuiti stampati, cosa, all'età di 8-9 anni. E poi nell'81 ho comprato il mio primo computer, il Commodore VIC-20. Wow. Seguito Sorbole. Subito dopo dal Commodore 64, e lo programmavo anche in assembler, linguaggio macchina. Cioè, hai capito? Quindi, ma che roba! E infatti da lì mi è venuto molto. Infatti ero un hacker, proprio sproteggevo i programmi. No, ma li craccavo. Hai capito? È il mio mito. veramente. E quella è una cosa che mi è rimasta. Ai tempi hackeravo i computer e le cose, e ora hackero invece il pianoforte. Perché l'hacker a me piace moltissimo come filosofia, è colui che non si accontenta di quello che ha e lo vuole trasformare. È un modo proprio creativo di porsi di fronte alla realtà. Limiti del codice, sì, del linguaggio, sì, e del esatto, conosciuto, esatto. Andare oltre è pura ricerca, esatto. Oh, attenzione, wow, che poi quell'amico di Salvini ce l'ha anche con te, che parli troppo. Comunque, per sì, rispondere, ce l'ha con me perché non mi voglio fidanzare. Vabbè, rispondere all'amico, certo, di Salvini prima, e diceva Salvini: allora io voterò, non l'ho mai votato, voterò Salvini quando parlerà anche lui di cazzate tipo post-strutturalismo, post-strutturalismo, coxate, scusa, weberniano, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, ciao Gifo. Lo voterò. Ciao Gifo. Ciao Gifo. Bene, un bel silenzio, vuoto coxico. Voi direte: ma questo cosa c'entra con Mario Maria? Niente, però siccome è la Rosalia de Sousa che mi ha spedito sempre Francesca, che salutiamo caldamente, mettiamo lei. È bello sto pezzo. Quando mi dicen che chover traz paciência, ma se a gente não aguenta esse chovendo no molhado, quando começa parece que não termina. Esse castigo, essa sina, dura um dia ou muito mais. Agora, amigo, estou quase gargalhando. Essa história é uma piada que eu sei não dá em nada, mas eu insisto, não largo o trampo. Talvez, quem sabe, sou eu que me engano. due anni giocavano a basket? Non ha capito. Forse non sono stato chiaro io. Sì, a sei anni gli elementari giocavano a basket, e poi invece io mi dissociavo e quindi mi diressi verso la musica. Ma e dunque hai fatto il conservatorio? Sì, il conservatorio Rossini, quindi ovviamente. Rossini, tra l'altro, non dimenticò mai Pesaro, poi se ne andò all'età di sei anni a Bologna. Tra l'altro, visse qui a Bologna, vedi, c'era qualcosa. Poi dopo divenne una star già da giovane, a 19 anni, già scriveva opere, le rappresentava tra Milano, Venezia, Napoli, e poi se ne andò in Francia. Tra l'altro, Rossini smise di scrivere opere a 37 anni. Abbandonò proprio totalmente la carriera operistica e si dedicò a scrivere musica da camera, musica, quelli che chiamava i peccati di vecchiaia, e quindi insomma una larga parte, più di metà della sua vita se la trascorre in questo esilio dorato, diciamo, no? Mutta figo Maura Mariani, va pauta a Ruma. Ruma vuol dire stupido, però in estone Rumal. Ma questo è finlandese. Ma in finlandese e sono molto simili. Ma no. Infatti vedi brutto. Slega di brutto. Slega però, di brutto. Però Rumal, non è Mauro, è Mario. Mario Mariani. Maolen Mario. Io sono Mario in estone. Ma com'è che sei l'estone? Lei, perché sono stato un paio di volte in Estonia, diciamo, ero. Questo lo so io. Cosa hai fatto in Estonia? Ma diciamo, ai tempi mi ero innamorato della figlia di un grande compositore, poi ecco. E quindi poi dopo. Del resto al resto, nord si sì, va solo sì, per sì, quello, sì. Le figlie dei compositori. Grande compositore. Ho capito. E quindi. Ma invece mi dici che stai vagando con questo nuovo album in giro per il mondo, sì, giusto? Sì, l'ho portato a Oslo, Stoccolma recentemente, a Skopje in Macedonia, a Tunisi. Wow. E l'anno prossimo in Costa Rica, dove ritornerò per la quinta volta nel mio amato Costa Rica, che è una patria che mi ha un po' adottato. E quindi insomma. Allora io continuo con le mie curiosità, sono appunto la femminuccia che mi appassiona le storie. Quindi abbiamo fatto il conservatorio e quando cominciano i primi viaggi per concerti? Ma i primi viaggi cominciano, i primi viaggi magari in Italia. Ho vissuto a Milano per 4-5 anni, negli anni in cui facevo musica per pubblicità, quando ancora non c'erano le library che avevano fatto fuori i compositori. E quindi, diciamo, ecco, il tour dei concerti è una parte della mia carriera relativamente recente, diciamo sono 4-5 anni che lo sto facendo in maniera sistematica, se no prima era più, diciamo, sparsa e mi occupavo più di scrivere musica per il cinema. Ho scritto due volte la sigla del Festival di Venezia e poi tanta musica per documentari, per film, lungometraggi, tra cui tutti i lavori di Vittorio Moroni. Se vi capita andate a cercarvi sui film, grazie. Molto belli. Sì. Ottime indicazioni per i prossimi Cox. Per i prossimi Cox. Ma quindi sei partito subito come pianista? Allora, come pianista, ma in realtà no, diciamo no. Il primo concerto internazionale come musicista. Penso che l'ho fatto, mi sa, negli anni 90, forse mi siamo venuti, è stata una casa di riposo fuori Monaco. Credo, sì, fuori Monaco, quindi negli anni 90, nel 90. E tipo, cosa essere. Cioè, fuori Monaco vuol dire Dachau. No, era lì vicino, mi sa che era Penzberg, se mi ricordo bene. Casa di riposo, ho suonato musica classica, poi con le mie variazioni, con una mia amica violinista ero, e poi fece io da sempre con. Ma raccontaci di questa tua amica violinista. No, ma raccontati di questo amore contemporaneo per la classica. Ma in realtà la musica classica, devo dire che ho fatto pace con la musica classica con Rossini Variations, perché ho sempre cercato lo sperimentalismo in svariate forme. E quindi l'improvvisazione, che io preferisco chiamare composizione istantanea transpersonale potrebbe essere un corso. Parliamo dell'Accademia di transpersonale, per favore. Allora, il transpersonale è un concetto molto interessante, credo che il termine lo introduce Roberto Assagioli, che era questo grande filosofo, psicanalista, filosofo della psicologia, contemporaneo di Freud, tra l'altro, e è un termine che poi riprende Jung, quindi il transpersonale come qualcosa che è al di là ma passa per il personale, l'inconscio collettivo. E io mi immagino, parafrasando Jung, un inconscio collettivo musicale in cui è come un grande, oggi si direbbe il cloud, no? Come un grande database in cui ci sono stili musicali, musiche scritte e anche musiche non scritte, e io vado a prendere in questa sorta di supermarket musicale spirituale, prendo certa musica e la riporto in tempo reale. okamžité transpersonální složení. Esatto, oškemnici. Però figo Mario Mariani, ci scrivono su 333-180-94-94. Grazie. Però è sempre, Mario, non è Mauro. Lo so, cosa... dicetecelo diciamo, Mario. Più che altro non appaiono più le notifiche di WhatsApp, per cui continuate a scrivere sul 333-180-94-94, però poi magari vengono lette domattina da Willy. Quando... Allora, diciamolo allora, dunque, allora, il numero 333, ricordate, 180, come può essere ricordato? 180 gradi. No. 180 gradi. 90 gradi per due. Esatto. Poi 94, 94. Quindi 333, 180. 94. Mandate qualche bel smsino. Ok, quindi... L'angolo della menzione. E mi tocca di farle tutte io, Fedra, perché... Poi ci sarebbe anche, scusa, l'angolo della minzione. No, che è quello che... sono 5 anni che non lo diciamo, dovevi arrivare tu a dirlo, scusate. Vabbè, dai, ogni che uno va nell'angolo quando gli scappa. Allora, sabato 17 novembre, che sarebbe domani, alle ore 18, Giulio Saverio Rossi, così inaspettatamente, mi inaugura una mostra personale chiamata Ogni cosa rappresa, a Cardrd, che è in via Gardino 14A a Bologna. Bello, come armonizzi, Mario. Hai visto? Armonizzi. Dopodiché succede anche sempre nella zona Mambo, abbiamo Alessandra Spranzi con Mani che imbrogliano. Per Mani che imbrogliano, Alessandra. Aspetta, scusami, Mani che imbrogliano oppure Maniche imbrogliano? Mani che imbrogliano, scusate, non mi imbrogliate. Mani che imbrogliano, Alessandra Spranzi ha preparato un grande spettacolo di magia fatto di poco, molto poco. Immagini da manuali di oggetti trovati o raccolti per strada insieme ad altri che animano da sempre le quinte della nostra casa. Gesti che mostrano, che provano a spiegare qualcosa. Come Harry Houdini, che proponeva per 50 centesimi di insegnare come leggere al buio biglietti piegati. Carte piegate al buio con dentro, forse, un'immagine. E questa è alla P420, domani dalle 18 in via Azzogardino numero 9, sempre a Bologna. Dopodiché, sempre sabato, abbiamo Il tempo sei tu che lo decidi, di Elisa Mullier, a cura di Alice Zannoni, che conosciamo, e di Adiacenze. Ciao Alice! Ciao Alice! Un nuovo ciclo pittorico e un'inedita sperimentazione scultorea. E questa, naturalmente, è all'Associazione Culturale Adiacenze di Vicolo Santo Spirito 1B a Bologna, e questo domani dalle 18.30. Ancora? Hai voglia! Poi invece, sempre domani, ma anche domenica 18, 3.652 più giorni di scarti aziendali per il diritto alla bellezza. Questo è complicato. Scarti aziendali per il diritto alla bellezza. Ma mi piace! Una 2 giorni di ricerca ed eventi per festeggiare i 10 anni dell'associazione Remida a Calderara di Reno. Oh, bravi loro! Si parte con una tavola rotonda intitolata Il diritto alla bellezza, materiali, cittadinanza e qualità delle relazioni, a cui partecipano il pedagogista Marco Dallari, che salutiamo caldamente, l'artista ed educatore Massimiliano Fabbri, Eloisa Di Rocco di Remida e tanti altri, per poi domenica vedere anche un workshop gratuito di serigrafia e tanti altri eventi. E per tutto questo dovete andare su www.remidabologna.it, oppure domani, che però è già un po' troppo tardi, su www.coxospaziale.blogspot.com, dove trovate il link giusto per capire tutto quello che succede. Voi direte, sarà finita? E invece no, non è finita. Domenica, che è dopodomani, senti questa, Bologna Cello Project, ovvero violoncelli. Concerto per 22 violoncelli. L'ho detto a mia madre, ho detto, guarda, devi venire perché non è cioè 22 violoncelli che suonano in contemporanea, dove, non dove, li dove? Sentirai mai più. Senti questa. Nicola Baroni, Enrico Guerzoni, Antonio Mostacci, Carlo Filippo Caramazza, Luca Cipriani, Virginia Dardi, Elena Giardini, no, Lorenzo Gianferri, Giacomo Giuliani, Cecilia Lorchiano, Viola Lolli, Lorenzo Lucerni, Irene Marzadori, Antonello Manzo, guarda, Sara guarda Merlini, Francesca Pia Coco, Marta Proz, Michele Russo, Marta Salvi, Federico Sciascia, Elena Schellenz, Roberta Selva al violoncello, poi abbiamo Elena Tereschenko a soprano, Massimiliano Messeri alla direzione, musiche di Arvo Pärt, Terry Riley, Massimiliano Messeri, Enrico Guerzoni, collettivo In Nova Fair, e questo è tutto quanto è a cura di Nicola Baroni in collaborazione con Angelica. E Angelica, il festival che c'è a Bologna, è molto bello. Esatto, e questo è domenica alle ore 11 al Conservatorio di Musica Giubbe Martini di Bologna. E questo è in via dov'è? Fra l'altro non ho l'indirizzo, comunque è vicino a via Zamboni, c'è cioè sì. Chi non sa dove è il Conservatorio di Bologna, metta il dito qui sotto, e comunque l'ingresso è sotto. Libero. Cioè, bello, 22, bello, bello, 22 violoncelli che suonano in contemporanea ad ingresso libero. Vogliamo rileggere i nomi dei musicisti? direi che magari anche no. Lo vuoi, 3 miliardi e 331 milioni e 809 mila 494 mani che imbrogliano con saluti calorosi e tanta cula. Ma cavoli, sei stata bravissima. Dove è finito l'altro ospite? Ma si è addormentato dopo il 14esimo. Devi sapere che lui è un Bond. E quindi sono questi, ma tornerà, sono sicura. Ho capito. E grazie per aver puntualizzato la sua assenza. No, sarà contento di ascoltare la sua assenza dalla cucina. E dunque cosa? 3 miliardi 331 milioni 809 494 ruce, které podvádějí s teplými pozdravy a hodně zadek. Hai capito? Prendine uno a caso e poi ci facciamo raccontare. Prendiamone uno a caso e poi facciamoci raccontare. Adesso aspetta che devo ritornare nel punto giusto. Ma cosa ti metto i googolini apposta a fare? Scusami. Sono dei tappi, ma poi tu resti a fare. Lo so, ti manca Google, la signorina Google. Hai visto che a me è venuto un signor Google per l'italiano? Guarda che strano. Dite, ci volete parlare sopra? Vabbè, posso spiegare, allora, questa è l'ultima traccia dell'album che appunto lo chiude, ed è la Tarantella Napoletana di Gioachino Rossini. E parlavamo di frullini, è il frullino che ho utilizzato prima per il rullante della Gazzaladra, qui invece per trasformare il pianoforte in un mandolino. E ci tengo a dire che questo è un brano eseguito completamente dal vivo, e quando lo suono dal vivo è esattamente così, quindi il pianoforte diventa un'orchestra partenopea di mandolini, di così. Ma come fai a fare sta roba? No, io sono ancora sono proiettata in un'altra dimensione. No, ma veramente sono questi frullini. Ma infatti secondo me dovevamo affittare un piano a coda, certo, metterlo entrare qua e no. Sì, altro che basso livello di radiofonia, qua ci vuole infatti il pianoforte a coda. Sì, esatto. Anche perché insomma il pianoforte l'ho portato in una grotta io 10 anni fa. E quindi volevo portarci anche la grotta. Ho vissuto per un mese in una grotta con un pianoforte a coda. Wow. E poi l'ho portato in un bosco. Parliamo fatto di frullini. Per frullini. Io invece volevo parlare della grotta. Scusami, che frullini sono? Ma questi sono frullini, possiamo fare pubblicità, IKEA. Ma il frullino IKEA per fare la schiuma per al cappuccino. Sì. Ah, quelli che girano. Quelli che girano, esatto, che purtroppo mi durano poco, ne compro sempre tanti perché dopo capisco. Un po' si rompono. Adesso la prossima volta che vado all'IKEA. Sì, sì. Io pensavo che fossero tipo ne gli sbattitori. No, sono, no, perché hanno il motorino elettrico con due batterie e gira e fa questa. E come li installi? Ah, io semplicemente li appoggio sulle corde. Che vanno? Sì, quelli girano, hanno il moto circolare, lo appoggio ed è come se ci fosse uno che continua a girare. E intanto tu suoni? No, quando faccio quello in realtà con una mano suono, c'è tipo in questo brano, con la mano sinistra faccio diciamo il cosiddetto accompagnamento, chiamandolo così, e con la destra faccio il tema. Non ti sei mai avvalso di un assistente frullinista? Ma il budget non me lo permette, quindi faccio tutto da me. Ma secondo me uno stagista ci verrebbe volentieri, eh? Stagista vabbè, gratis. Ma poi sbaglia magari, però. Poi dopo magari, però. Può essere, posso valutare, può essere interessante, posso. Sì. Se vuoi sentirlo suonato peggio, lo fai fare a uno stagista. Ma c'è un messaggino su WhatsApp. Sì. C'è un messaggino che su WhatsApp. Lo leggo io? Leggilo tu. Io che c'ho ancora Davi e Bowie e Zappa qui in salotto da 2 settimane, concordo con i miei amici che Mauro è un grande. Non so chi è Mauro, forse. Vabbè. Ma sempre sto sempre Mauro. Perché mi sbagliano Mario sempre il nome? Mario Mariani. Grazie, ma lo fanno apposta. Mario Mariani. Comunque concordo Mauro anch'io. Mauro è l'economista. L'economista. O il cuoco. No, Mauro è il cuoco, il mangiologo. Ah, ecco perché allora si è confuso con i frullini. Forse per quello, forse perché ci faceva la schiuma, la panna montata. No, scusami, lo saluto caramente perché vuol dire che sono 3 settimane che ci ascolta. Quando c'era la puntata sugli spiriti, a lui gli si erano manifestati in camera. David Bowie e Zappa, sì, caspita. E non se ne sono più andati. A quanto pare no. Tra l'altro io sono un fan sfegatato di Frank Zappa, anche David Bowie mi piace tantissimo. Zappa è stato uno dei miei maestri. La recherche. Sì, la recherche. Tra l'altro quest'anno, visto che sono 25 anni dalla morte di Zappa, pure, e io ho suonato un programma che ho ripreso dopo tanti anni che si chiama Zapp Piano. Wow. Che sono musiche di Frank Zappa al pianoforte, difficilissime, e l'ho suonato, sapete dove? A Partinico, patria del padre di Frank Zappa, quindi non a caso avete tirato fuori Zappa, abbiamo tirato fuori. Ottimo, ottimo. Partinico. Ecco perché sono ancora lì, perché sapevano in quanto spiriti che saresti arrivato. Sì. Tra l'altro ho eseguito per la prima volta il brano, un po' brano produzione minore, Tengo una minchia tanta. Ma lo sai di che l'abbiamo spesso trasmesso qui quando eravamo in un'altra fascia, il mio brano preferito. Poi un brano che Zappa ha fatto in veramente 5 secondi. E Tengo una minchia tanta, ho fatto delle variazioni. Sì. Ci vorrebbe un pollo. Per misurarlo. Hai capito? Mi avete lasciato senza parole. E in questo momento, ripensando al brano, anch'io ho un momento di contemplazione. Molto bene. E dunque, se io voglio comprare il tuo CD, dove devo andare? Allora, vai su Amazon. No, sì, hai ragione. Allora, facciamo, vai sul sito mio. Allora, puoi fare così: vieni ai miei concerti, quindi mariomariani.com. Lì comunque c'è il link che va a Artist First, che è la distribuzione. Mm-hmm. Quindi non andate su Amazon, lasciamo stare Jeff Bezos ai suoi miliardi, le sue scale che dice di fare. Lui fa sempre le scale a piedi. www.mariomariani.com. Brava. Senti che bella voce, un po' così, un po' alticcia, un po' vecchia. Mario Mariani tecca.com. Mi viene, c'ho una voglia di Unione Sovietica quando sento queste voci così, insomma. Facciamolo anche più. www.mariomariani.com. Fucking hell, un yeah. Un po' più anglo-anglofona. Andate avanti, intanto continuo. Ok, continuiamo. E quindi scusa, dici, sì, mi no, sono perso. La distribuzione. Distribuzione, sì, sì, lo potete comprare. E il tuo, i tuoi prossimi concerti dove saranno? Così veniamo a comprare. Allora, secondo me lo si può scoprire in Costa Rica. No. MarioMariani.com. Beh, allora, i prossimi concerti. Vabbè, intanto in suoni la viola al conservatorio domenica, no? Insieme ai violoncelli, no, no, quindi beh, in Italia seguitemi sul mio Mario Marani Live. A Bologna sono tanti anni che non ci torno. Ero venuto nel 95 con il mio gruppo Broz Ensemble. Mi ricordo, abbiamo suonato in un paio di situazioni, ecco. No, scusami, Broz. Ma Broz era. Ma è vero che c'hai anche un blog erotico? Blog erotico? No, posso. Davvero? Potrei farlo per arrotondare, potrebbe essere un'idea. Dove il blog erotico? Ah, no, quello era lui, mi sono sbagliato. Era Bond. Bond. Che Bond Girl. Giustamente, con un cognome così, deve approfittare. Per fare. No. Quando Fedra mi guarda così io perdo la parola. Ma non lo so, vogliamo chiedere al nostro ospite misterioso. Qualche contributo? Sì. Adoro parlare di niente, se volete proprio qual è il tuo anche il questa tuo... voce non è male, eh? Infatti, qual è il tuo blog erotico preferito? Non lo so, ero qua che ancora mi chiedevo perché c'era scritto 2018 anni sul calendario della radio. Ah, c'è scritto anni dalla sì, tua parte. C'è scritto Po 49-17. Perché sai che invece dalla mia parte c'è scritto 2018 anno. Ah, ma dai. Sono attenzione, attenzione. Non ma solo i minuti, ma anche. Esatto, ma il tuo, io faccio le 20. Il mio dice noi siamo anche sia mercoledì che venerdì. Stavo vedendo in questo momento. Dicevo, il mio fa le 20:08, fra l'altro. Non so che ore fa il vostro. Poi 49. Esatto, le Po. Ecco, le Po e 49. Devo dire che questi nuovi orologi sono stati un ottimo acquisto per Radio Città Fujiko. No, e invece questa cosa di suonare con i frullini le corde di un pianoforte, l'hai mai incontrato? Stavo pensando a una dinamo, cioè a un... una bicicletta attaccata al frullino che faceva girare il frullino. Ah, quando attaccavi la carta da gioco con si fa anche ricarica le pile. E sempre qui ritornano gli steggisti che servono questo. Veramente. No, però era simpatico quando mettevi la carta da gioco attaccata col ciappetto nella bicicletta che faceva il rumore di una marmitta. E tu l'hai registrato quel suono lì? Assolutamente, sicuramente ce l'ho. No, in realtà stasera ho registrato il festeggiamento dei 15 anni di Info Modo Shop e hanno aperto un nuovo... In via Mascarella. Ma salutiamoli allora. Salutiamoli, sono ancora là che festeggiano. Festeggiamoli. Ma festeggiamoli anche noi. E hanno aperto un nuovo posto che si chiama Infomodo Lab di fianco. Cioè, prima hanno fatto la libreria, poi hanno fatto il bar e adesso dall'altra parte hanno fatto un Infomodo Lab. E però non ho avuto il tempo di capire che coxo faranno là dentro. Magari li potremmo invitare per farcelo spiegare in diretta una delle prossime puntate. Magari anche sì. E siccome... Ma è vero che tu nelle prossime puntate non ci sarai più per un po' di tempo? Forse la prossima sì, dipende se faccio in tempo a ritornare da Milano. Ah. Altrimenti credo che il coxo salterà. Quelle dopo. Come il coxo? Tu non ci sei la settimana prossima. No, io non ci. Sì, da io la settimana prossima. Lasciando perdere un attimo le programmazioni coxiche, ritornando un attimino a noi, sì. Direi: perché non ci facciamo un altro ascolto in primo livello di una delle opere dall'ultimo album del nostro super mega galattico ospite della 200 di una trasmissione di Coxo Spaziale? Tipo il duello buffo di due gatti. Perché no, certo. Ma perché no? E poi gli chiediamo tutto il resto. Benissimo. Mario, Mario Mariani, quante cose ancora avrei voluto chiederti sull'improvvisazione, su la composizione istantanea transpersonale. Guarda, con queste parole, con queste tre semplici parole accostate, hai scevrato le nubi dei miei pensieri e mi hai portato in un altrove dove risplende il possibile, una sorta di orizzonte degli eventi. Detto questo, ma che cos'è che stavi facendo in questo brano? Si chiama questo brano e perché? Allora, questo brano si chiama Duello buffo di due gatti ed è, in realtà non è una trascrizione errata, di Duetto buffo di due gatti, che è un brano che viene attribuito a Rossini. Qualcuno è dubbioso, dice forse non è stato lui. Comunque, ma forse è di Mario Mariani? No, ma purtroppo no. C'è un brano originale che si chiama Rossiniana, però questo no, questo non è un brano, c'è una mia parafrasi, rivisitazione su Duetto buffo di due gatti, che sono due gatti. Stai che ricevendo dei WhatsApp, stanno arrivando messaggi, che sono questi due gatti che, come dire, si fronteggiano, si rispondono, e il testo dice miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau, questo è il testo, e quindi Rossini lo fa come se fossero due gatti in amore che cantano. E io gli ho dato invece un'ambientazione, sentirete nella seconda parte, l'avete un po' sentito prima che ricominciassimo a parlare, un po' alla Ennio Morricone, Spaghetti Western, e qui immagino questo duello. E quindi, in particolare, volevo attirare l'attenzione sull'inizio, su questo suono, su questo miagolio che ho ricreato con una tecnica estesa che ho, insomma, trovato, che sono queste biglie cinesi che, spingendo sulle corde, fanno un po' il bending, cioè mi fanno andare oltre la limitazione da hacker, insomma, mi piace andare oltre le limitazioni dello strumento, del pianoforte, e quindi il pianoforte, che sapete bene che ha una quantità fissa di note. Nella scala musicale tu hai 12 note, dal do al do sono 12 semitoni, quindi tra un semitono e l'altro non puoi assolutamente fare un altro intervallo, cosa che puoi fare con il violino, che anche è la sua, anche, diciamo, la sua cosa coccica, perché se tu sposti di un minimo cambi l'intonazione, e purtroppo i violinisti stonati li conosciamo molto bene, e quindi Quelli con i ditoni, che purtroppo è uno strumento difficilissimo, e quindi con questa maniera riesco a creare invece questo effetto di miagolio e di slide. Ma no, altre non fateci niente, caso. Continuo. Quindi altre domande c'erano? Tu hai qualche domanda? No, segui volentieri. No, mi si è staccato un attimo il tasto, ma non abbiamo perso niente, giusto? No, io c'ho un momentone che mi sono un pochino perché, distratta, no, perché ho avuto un saluto. Un saluto da chi? Ivan Bruni, l'astrofisico riminese, che sta partendo proprio adesso per la missione. Per Marte. La missione in Antartide. Hanno parlato anche i radiogiornali. Ma è l'unico astrofisico italiano che perché è un mio amico. Ah, sì. E quindi gli ho chiesto se ci ha mandato la foto di tutta la troupe, che sono in Nuova Zelanda e stavano hanno rimandato la partenza in Antartide per questione di maltempo. Ho detto: ma dai, mandaci un salutone che lo mando in radio. Adesso vediamo cosa dice. Fatti mandare un sonoro, no? Infatti, gli ho detto: ma sta scrivendo. Ah, sta scrivendo. Però ho abbassato adesso, ho abbassato. Hai abbassato? Appena esco dall'aeroporto, mi sa allora che il tempo tecnico no. Però da domani su www.coxospaziale.blogspot.com ci sarà anche la bella fotona con i bei faccioni dei nostri italiani e francesi in missione per l'Antartide. Ma che cosa vanno a fare in Antartide? Vanno a osservare le stelle per 16 mesi, 6 dei quali saranno isolati nel deserto di ghiaccio, con temperature proibitive, che non si può stare fuori da soli più di 15 minuti. 6 dei quali a digiuno. No, però se stai fuori più di un quarto d'ora muori. Sì, sì, e non ti possono ripigliare. Ma io, guarda, io un inverno a New York lo posso capire, cioè uscivo di casa per con tutti i vestiti che avevo, per cui mi mettevo tipo tre paia di pantaloni, tutti i giubbotti che avevo, e facevo due blocks per arrivare alla metropolitana, e stavo letteralmente morendo di freddo, per cui immagino che in Antartide sia, che è un pelino un po' più dall'altra parte, un pelino più a sud, ma più freschino, ma forse meno secco, diciamo. È vero, perché effettivamente sì, e il nostro ospite qui ne sa qualcosa, perché stamattina si è svegliato in Russia. Ah, giusto. Com'era a San Pietroburgo stamattina? A San Pietroburgo era umido è meno freddo che a Mosca. A Mosca era più secco, più freddo, e stava meglio in realtà. Mm. Quindi... Ma come sono le donne più belle a San Pietroburgo o a Mosca? Non Stefano, avevamo detto che questo argomento lo tenevamo per i fuori onda. Scusa, parliamo dopo. Mi sono distratto un attimo. Ma è... di bene, cominciamo a fare la negoziazione tra i vari orari che ci sono in studio. Io ce n'ho uno che fa 58 minuti e 35 secondi, e esatto. Un altro che fa le 8 e 56. Esatto, no? Effettivamente a questo punto direi che possiamo... Cosa hai di là? Io faccio, allora, quello fa le 20 e 17, quello fa le 20 e 56 e quello invece fa le 20 e 58 più o meno. Quindi cosa facciamo? Salutiamo? Secondo me possiamo mandare questa cosa qua. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Che fra l'altro questa sigla qua è, adesso la abbasso un po' intanto, è Riccardo Ceres ed è Spaghetti Southern l'album, a proposito di Spaghetti Western. Lui invece ha fatto degli Spaghetti Southern. Mi sembra che sia in la minore, come anche la tarantella rossiniana. Visto? Ma non l'ho scelto a caso. Ho detto oggi metto solo dei pezzi in la minore. Ringraziamo Mario Mariani. Non Mauro, grazie a voi. Sei stato un ti ringraziamo mito. Tantissimo e ti invitiamo grazie a tornare quando vuoi. Come perché no. Sai che ogni ospite coxico poi ha il coxo accesso per gli eoni e eoni. Esatto. Allora spero di ritornare e di venire a suonare a Bologna. Quindi se qualche direttore artistico festivalofilo così mi inviti, che farà bella figura spendendo ragionevolmente poco. E poi quando vieni qui con l'occasione ci porti anche un pianofortino a mezza questa coda. Volta, vabbè, una prossima volta lo porto, dai. Vabbè. Salutiamo anche Mr. Bond. Salutiamo Mr. Bond. Ciao, volevo dire che Ceres comunque ne ha bevuto, secondo me. Anche beh, secondo me. Dopodiché salutiamo anche Claudia Mauti con Mighty, non mi ricordo più come si chiama il suo programma, che adesso sta per partire in questo sì, momento. Io saluterei anche i 20 violoncellisti. Esatto. Richiamandoli per noi. Erano 20 o 22? E sai che forse erano 22, però non vorrei, no, è che fra un po' parte la pubblicità e non vorrei che dopo per quindi, dopo 22 non è un caso, numero che hanno scelto a caso. Tanti buoni coxi a tutti. Questo era Coxo Spaziale, io ero Stefano W. Pasquini, questa è la fantastica Fedra Boscaro con la CEO senza e ci sentiamo tra una settimana, forse tra una settimana e forse anche mai più, chissà. No, tanti saluti allo spirito di Frank Zappa nel soggiorno del nostro ascoltatore grande Frank. È un macellaio Mighty FM, ecco che cosa manca. Radio incomprensibile, il tempo che passa celibe sulla parola amore, non si ferma mai a bere sigarette morte, finestrino aria. Ma che paese quest'Italia, quest'Italia.